Siamo molto grati al professor Weber di questa splendida relazione così ricca di documenti, di proposte, di aperture su una storia che poi appartiene intimamente anche a gran parte della storia italiana e delle prospettive anche di metodo che ha suggerito, che sono applicabili naturalmente anche a molta parte delle ricerche di cui ci dobbiamo occupare, e particolarmente anche tutta questa serie di applicazioni possibili della prosopografia che avrebbero interessanti applicazioni interdisciplinari quali noi cerchiamo. Io spero che sia possibile dedicare ampio spazio alla discussione ed è per questo che passo subito la parola appunto al professor Merisi, che ci parlerà diciamo così specularmente, come ho detto prima, della corte asburgica, vero? La mia premessa è sostanzialmente analoga alla conclusione del professor Weber, vale a dire sulla corte asburgica dell'Ottocento c'è dal punto di vista storiografico e soprattutto dal punto di vista di ricerche concrete su dati effettivi una specie di vuoto assoluto. Recentemente in Austria si è dato, dopo un vuoto di parecchi decenni, nuovo spazio a ricerche sulla corte, però si è limitati al periodo considerato aureo dello splendore della corte asburgica, vale a dire ai secoli XVII e XVIII, il periodo dell'assolutismo, dell'ingabbiamento della nobiltà terriera presso Vienna, quindi di un primo tentativo di accentramento territoriale, e si è del tutto tralasciato la linea di fuga concreta, i mutamenti qualitativi, i cambiamenti avvenuti all'interno della corte asburgica nell'Ottocento. In questo senso si è rimasti, in fondo, si è rimasto anche l'autore di un bel libro sulla corte asburgica assolutistica, Christian Jalt, che si è giovato del reingresso nell'area culturale tedesca dei lavori di Elias da almeno 10 anni, quindi dalla meditazione su tutti gli aspetti relativi all'ostentazione come funzione sociale di dominio effettiva e non come dimensione estetica. In Germania ormai da 10 anni, contrariamente all'Italia, su Elias si è rimeditato, c'è stata una produzione ampia. Ma volevo dire, anche gli studiosi austriaci che si sono occupati della corte assolutistica sono in fondo rimasti ingabbiati proprio nella trappola che era stata predisposta dalla storiografia precedente. È cosa comune in tutti gli autori che si occupano attualmente della corte assolutistica il tacciare di moralismo e considerare come antistorici quegli storici che nella seconda metà dell'Ottocento, e ce ne sono stati vari, hanno dedicato volumi, delle volte anche serie di volumi spaventose, nel senso numerico. C'è per esempio un autore che ha fatto 40 volumi tra 850 e 860 sulle corti dell'area tedesca, che hanno considerati moralistici per il fatto appunto che si dedicavano a una storiografia di tipo coloristico, di tipo estetico, influenzata dal concetto di restituire immagini piuttosto che analisi su tutto questo aspetto della cultura ostentativa dell'antico regime. E l'ingabbiamento è consistito nel fatto che anche questi nuovi ricercatori hanno bloccato l'estensione cronologica della loro analisi proprio a quest'epoca assolutistica, cioè non hanno tentato un'analisi puntuale di come in concreto è finita la vecchia società di corte restituita per immagini per i storici dell'Ottocento e di come nell'Ottocento i cambiamenti qualitativi concreti che sono avuti nella corte abbiano anche influenzato quella storiografia che per prima se ne è occupata. Nell'area tedesca in generale, in particolare a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, è diffuso l'interesse per il tema della nazione, e questo è anche un motivo che spiega lo stornamento dell'analisi unicamente sui temi dell'esercito, per esempio, oppure della burocrazia, cioè sul divenire stato moderno dell'impero asburgico. Questo tornamento si spiega anche col fatto che la vecchia corte dell'antico regime, in particolare in una realtà territoriale come quella imperiale, che oltre a essere così territorialmente circoscritta aveva anche una dimensione sacrale extraterritoriale, extranazionale. Gli imperatori d'Austria nel 700 fino al 1806 non sono soltanto imperatori dell'impero asburgico, ma sono stati romani imperatori, e l'interesse per lo Stato nazionale ha in un certo senso messo da parte un'analisi sulla dimensione internazionale che la corte asburgica aveva già nel Settecento. Per esempio, sul finire dell'antico regime, la popolazione concretamente insediata a Vienna, a Schönbrunn, è composta per oltre la metà da diplomatici che provengono dalle realtà territoriali più disparate, non soltanto da stati, ma anche diplomatici che rappresentano singole città, o da diplomatici che rappresentano stende, i ceti, ampiamente diffusi in tutta l'area tedesca. Questa dimensione multinazionale, ma multinazionale al di là dei limiti territoriali dell'impero, multinazionale in un senso, in un'accezione anche sacrale in un certo senso, viene meno per una serie di processi storici che cominciano con l'opera di riformismo di Giuseppe II, ma che trovano un'accelerazione impetuosa in seguito alla rivoluzione francese e in particolare in seguito alle guerre napoleoniche. Questa vecchia dimensione della corte comincia a mutare, senza che però la corte finisca, nei primi 10 anni dell'Ottocento. In che maniera? Qua ho trovato con molto interesse che anche alcune linee della relazione del professor Weber coincidono, almeno alcuni nuclei tematici vengono messi in luce in maniera analoga. Anche qua la nuova corte asburgica dell'Ottocento si costruisce con un allargamento di partenza, vale a dire con un'enorme espansione numerica dei titolati di ordini equestri, che da 24 che erano nel 1720, al tempo di prima che Maria Teresa salisse al trono, diventano alcune centinaia nel periodo delle guerre napoleoniche. Dunque si assiste ad un processo di allargamento sociologico, per così dire, dei possibili cortigiani, vale a dire di persone che per un legame diretto con l'imperatore possono avere diritto all'accesso a corte o comunque possono pregiarsi, rimanendo ciascuno nelle proprie realtà regionali o nazionali, di un'aderenza diretta col sovrano. Altro dei fenomeni di allargamento sociologico degli uomini di corte, che troverà uno sviluppo per tutto l'Ottocento, fino alla fine dell'impero sostanzialmente, quindi fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, è quello della nuova politica di nobilitazione. Durante gli ultimi 100 anni di esistenza dell'impero, cioè durante il periodo che segna la costituzione dell'impero asburgico come impero nazionale e non più come impero di carattere sacrale transnazionale, si ha un numero di nobilitazioni pari a circa 8.000. Questo significa all'incirca 4 volte tanto quanto se ne erano avute nei secoli precedenti. Ora, chi sono i nuovi protagonisti di questa nobiltà che viene creata durante questi 100 anni? Sono all'incirca per 3/4 militari e per 1/4 impiegati. Quindi è un allargamento sociologico che annacqua, per così dire, la vecchia nobiltà, la vecchia immagine della nobiltà, e propone un raggruppamento di nuove figure che hanno aderenza diretta al sovrano, che favorisce una valorizzazione o comunque un'edificazione in immagine precisa di nuovi ceti sociali che si affacciano in qualche modo in questo secolo alla porta della storia. Ecco, di borghesia nascente, sarebbe questa forse la tentazione possibile anche in cui si può cadere, io non parlerei però per quanto riguarda questi nuovi nobilitari. I militari e gli impiegati che costituiranno il gruppo fondamentale della corte asburgica nell'Ottocento non sono sicuramente altoborghesi in senso classico, nel senso che non sono figure che abbiano in mente un processo di trasformazione della società fondato su nuovi principi di vita economica, ma fondato anche su una razionalità legata alla logica del mercato o comunque alla trasformazione delle vecchie strutture. Sono piuttosto figure di piccola borghesia che non ha un proprio progetto sociale preciso, che rimane in un certo senso schiacciata tra l'incudine e il martello, tra la vecchia nobiltà agraria che conserva il proprio peso sociale, comunque il proprio stile di vita, e una borghesia di carattere finanziario in parte anche industriale, che paradossalmente in Austria non riuscirà ad esprimere una propria logica di rappresentazione esterna del ruolo diversa da quella antica. A me pare molto significativo che sia un austriaco, lo Schumpeter, avrebbe formulato, nel primo decennio del Novecento, una teoria complessiva della società capitalistica fondata su due poli, vale a dire, sì, la nuova borghesia dell'industria, del mercato, detta le regole del vivere economico, però la nobiltà in un certo senso cattura con la propria immagine del mondo, col proprio stile di vita, questa nuova fascia di borghesia strutturalmente distinta. A Vienna, durante la Restaurazione, si assiste a questo strano processo, vale a dire, mentre lo stile di vita aulico, che aveva rappresentato il fulcro della vita di corte ancora fino a tutto il Settecento, compare dalla corte come luogo fisico, trova questo stile di vita una via d'uscita, una linea di fuga, non più all'interno della corte-stato, per così dire, ma all'interno della corte-società. Otto Brunner ha scritto un articolo di grande interesse sulle due società di Vienna durante la Restaurazione, in cui appunto evidenzia questo fenomeno, vale a dire tutto quello che è l'immagine classica, a tinte coloristiche, della vecchia corte, il mecenatismo per esempio, lo stile di vita raffinato, l'uso del francese per esempio come lingua di società, compare dalla corte dove c'è il sovrano e si diffonde invece a pioggia nei salotti borghesi e nei salotti nobiliari della Vienna della Restaurazione. Dunque, il vecchio stile trova una sua via di attuazione, la vecchia rappresentazione dello stato sociale si trasferisce su un altro piano. Cosa avviene invece in concreto all'interno della corte burocratica? C'è un mutamento nello stile di vita segnato in modo particolare da due figure che sono rimaste non a caso le più popolari, ma nel senso che hanno avuto anche una sorta di adorazione popolare. Intendo in senso sociologico, non in senso generale, vale a dire da parte di Francesco I e da parte poi di Francesco Giuseppe, con il breve intermezzo di Ferdinando, il quale è una figura particolare, comunque non si può neanche considerare come un vero e proprio sovrano, in quanto era debole di mente e il governo veniva sostanzialmente retto da altre figure. Ora, Francesco I è il primo sovrano a ritirarsi pubblicamente dalla vita di corte. Nasce in questo periodo, con un certo ritardo rispetto all'area prussiana, per esempio, di cui si è parlato ieri Corni, il mito, comunque l'immagine diffusa, largamente diffusa, del sovrano come servitore dello Stato. Anche qui, questo è un punto di passaggio che sempre Otto Brunner ha magistralmente descritto, definendo questa via d'uscita il passaggio dall'investitura per grazia divina del sovrano, quindi all'area magico-sacrale che la volgeva, al principio monarchico, vale a dire a un tipo di rifondazione della monarchia che sopravvive alla decadenza della corte di tipo classico, un tipo di rifondazione fondata su un allargamento dell'area sociologica degli uomini del sovrano, cioè di coloro che hanno aderenza diretta rispetto al sovrano. Francesco I o II, a seconda che lo consideri ancora Sacro Romano Imperatore oppure primo imperatore della Casa d'Austria, introduce nel costume della corte viennese, questo sarà una grossa rottura rispetto all'antico carattere internazionale, introduce il viennese come lingua di corte, neanche l'alto tedesco, il viennese come lingua popolare. E la sua immagine, quella che ci viene consegnata dal numero sterminato di biografie, fino ma ancora adesso se ne scrivono e sono venditissime, sono un vero bestseller normalmente, l'immagine di Francesco I che ci viene consegnata, l'immagine più classica, è quella del sovrano che ha stretto il maggior numero di mani durante il suo regno. Per dire, Francesco I, durante il lungo periodo in cui regnò, detto qualcosa come 40.000 udienze private. Udienze private che si rivolgevano a un pubblico popolare, si raccontano le leggende di chi veniva addirittura dalla Campania o dai borghi di Vienna per incontrare l'imperatore e per chiedergli consiglio e informazioni anche relative alla propria vita privata, per esempio come comportarsi in occasione di un lascito testamentario, o consigli sul come dotare la figlia in occasione di un matrimonio. Il tempo dell'imperatore, il tempo, l'utilizzo pratico del tempo, cambia anche in correlazione con questo fenomeno in maniera totale durante questo periodo. Quello che era lo spazio per la festa di corte, quindi per l'incontro essenzialmente con la nobiltà e con il bel mondo internazionale, questo è anche un punto da sottolineare, poi lo riprenderò, viene pressoché annullato. Si ha in sostanza un ritiro dell'imperatore da questa vita di corte. E il tempo materialmente utilizzato nella giornata quotidiana viene dedicato essenzialmente a questo nuovo tipo di costruzione immaginaria, vale a dire alla costruzione di questa identificazione con i ceti popolari o comunque con i ceti medio borghesi, che erano stati radicalmente esclusi in precedenza anche dal semplice accesso ai palazzi di corte. Altro punto da sottolineare è il massiccio ingresso dei militari nella vita di corte di questo periodo. Alcuni esempi che potremmo citare in questo senso, non tanto di storiografia, ma quanto di critica contemporanea rispetto a questi nuovi costumi, su cui sono costruite anche così interi filoni politici, colgono questi punti in particolare. Ad esempio, Lord Mayer, che è una strana figura di letterato che ebbe una parte importante nella vita politica austriaca durante le guerre napoleoniche, che poi in sostanza schiacciato davanti all'emergere dello stato burocratico e in particolare rispetto alla decadenza del vecchio costume nobiliare che si realizza durante l'epoca pre-46 in Austria, ormai copia un punto di fuga significativo di questo processo quando sottolinea il carattere rozzo e militaresco dell'imperatore e per converso la crescita della censura. Coglie in sostanza in questo ingresso di militari, cioè in questa identificazione di ceti nuovi con la vita di corte, la cessazione, l'impossibilità concreta per tutta la vecchia concezione mecenatistica di corte come area allargata di cultura interna però di una classe, di realizzarsi e di trovare una propria via di sostenimento. E così la censura, significativamente, che costituisce uno dei temi classici per tutta la storia austriaca prima della rivoluzione del 48, uno dei punti su cui si ritorna continuamente, si batte e si ribatte, viene vista dall'ormai come una conseguenza della fine del mecenatismo da parte della corte. Cioè come una politica intellettuale dal rango della corte, quindi come un ingresso di questi intellettuali nella società civile e come un'impossibilità di continuare a gravitare in un'area privilegiata. Altri osservatori della corte asburgica del tempo, come per esempio il Tarbal, che è un inglese che curiosamente vede l'Austria con un tipo di occhiali, per così dire, particolari, il Tarbal sottolinea e si stupisce invece per converso di questa nuova prassi di Francesco I che definisce populistica. Anche qua coglie un punto centrale. E ricollega questo populismo di corte dell'Ottocento al riformismo giuseppino, lo vede come una conseguenza logica, in sostanza si sono fatte le riforme, si è abbandonata la vecchia amministrazione patrimoniale, si è creato uno Stato che si rivolge ai sudditi direttamente, ebbene allora che anche i costumi, cioè le forme di espressione del nuovo Stato sociale, trovino una loro valorizzazione a corte nel senso dell'impero. Se da Francesco I passiamo a Giuseppe II, il quadro si accentua in maniera ulteriore in questo senso. Il Vese, che è un archivista, il quale negli anni 50 dell'Ottocento scrive questi 40 volumi sulla storia delle corti tedesche, è forse lo storico, comunque commentatore, che coglie meglio questo passaggio con un'immagine simbolica. Il Vese, per esempio, anch'egli di malcelate simpatie giuseppine, quindi anch'egli schierato in prima fila nella condanna del vecchio costume aristocratico delle corti, coglie benissimo questo passaggio quando, con un'immagine ad effetto, racconta come Francesco Giuseppe abbia turbato, per così dire, e completamente eliminato, annullato il vecchio spazio di rappresentazione introducendo il sigaro nella vita quotidiana della corte. Abitudine che Francesco Giuseppe aveva mutuato non a caso aveva mutuato non a caso sui campi di battaglia militari, alla scuola di Radetzky per così dire. Ecco, questo punto di passaggio mi pare molto significativo, vale a dire, in sostanza tutti questi commentatori dell'Ottocento sono d'accordo su un punto, anche se poi lo vedono da angoli prospettici differenti e quindi lo criticano o magari lo favoriscono. Vale a dire sul fatto che lo stile di vita, quindi il fenomeno insomma di ostentazione, di rappresentazione esterna dello status dell'imperatore di casa d'Austria si imborghesisce nel corso dell'Ottocento. Mentre in sostanza il vecchio stile nobiliare, il vecchio stile cortigiano aulico, classico, si diffonde nella società presso i nuovi ceti dirigenti emergenti, questo nuovo stile di vita per l'imperatore imborghesito trova i due poli di rappresentazione, da una parte in una piccola borghesia che non è legata al mercato come momento ascendente, ma che è legata in gran parte alle strutture dello Stato, quindi all'esercito e alla burocrazia, e dall'altra parte l'imperatore stesso. Ecco, sempre questo Vese, questo autore dei 40 volumi, merita una qualche osservazione ulteriore, anche perché la sua storia è anche significativa, è una storia particolare, ed è significativa di come in sostanza la storiografia successiva, in particolare quest'ultima storiografia dell'ultimo decennio passato, abbia recepito i mutamenti di sostanza in questo periodo. Il Vese, in uno di questi 40 volumi, io non li ho letti tutti ovviamente, ma ho avuto la fortuna di imbattermi in questa storia interna alla storia, racconta come non fosse stato in origine suo intento scrivere una storia delle corti da pubblicare. Lui era archivista a Dresda, aveva l'opportunità di usufruire di tutto il materiale derivante dagli spazi diplomatici, per esempio, dal materiale d'archivio, insomma, che poteva essere utile a una storia del genere, e prima del 48 aveva cominciato per proprio diletto a raccogliere questi materiali, ma scriveva per piacere, almeno questo è quello che racconta, non si sa se poi credergli, perché questi 40 volumi insomma sono un qualcosa di massiccio. Ecco, racconta poi che dopo il 48 le nuove condizioni di censura, prima assolutamente sarebbe stato impossibile, gli permettevano la pubblicazione di queste opere raccolte. E aveva cominciato all'inizio senza la pretesa di fare una storia completa. Gli succede questo: dopo aver pubblicato due o tre volumi, comincia a ricevere una serie di lettere di vario genere, ma è comunque è costretto a intrattenere una corrispondenza continua con il pubblico, che si divide sostanzialmente in due filoni, vale a dire da una parte ci sono alcuni membri isolati di famiglie nobiliari, i quali in sostanza gli vengono a fare le pulci su quello che ha scritto, perché così tutto il quadro relativo all'antico regime, ovviamente questo quadro, nobiltà depravata, dissipazione, mancata razionalità, quindi mancata distacco dalle classi popolari, eccetera, insomma la corte antica è vista come negativa. E gli eredi dei protagonisti di quella corte gliene trovano in tutti i colori, lo pigliano in castagna con falsificazioni, l'accusano di aver falsificato oppure di aver mal interpretato alcune carte, alcuni spazi. C'è tutta un'altra parte di pubblico invece, questa è la cosa più interessante, quantitativamente anche la maggiore, il quale lo incita, per così dire, a proseguire su questa strada. Credo che questi 40 volumi, dal punto di vista sociologico, siano forse il veicolo che, quantomeno nell'era tedesca, ha maggiormente contribuito nell'Ottocento a disegnare la vecchia immagine della corte. Ora, dal tipo di lettere di cui lui parla, si capisce in un certo senso qual è il pubblico che si nutre di questa vecchia immagine che il Vese distribuisce. È un pubblico estremamente interessato a tutti quegli aspetti considerati in quel momento deteriori della vita di corte, quindi all'aspetto del pettegolezzo, dell'aneddoto, della curiosità, della bizzarria, e che in un certo senso usufruisce di quest'opera a metà tra il romanzo e la storia vera e propria, ne usufruisce come un genere letterario, cioè come una lettura piacevole. Ma è da considerare in fondo, ed emerge chiaro insomma in questi volumi dedicati alle corti contemporanee, emerge chiaro come questa nuova area sociologica per la quale Deve scrive veda invece con estremo senso di realizzazione il mutamento di qualità, il salto di qualità che si è avuto nelle corti, nella corte asburgica, ma ho motivo di ritenere anche in varie altre corti europee dell'area tedesca, dopo il 48, vale a dire questo nuovo coinvolgimento popolare. Ecco, in fondo il pubblico che legge questa storia si nutre in un certo senso delle spoglie del nemico morto, vale a dire ridicolizza o accoglie con piacere il ridicolizzamento dell'antico stile di vita, proprio perché in fondo esiste un'identificazione tra popolo, ma inteso come una piccola borghesia che fa capo allo Stato, e sovrano, che trova nel nuovo stile di corte una sua evidente manifestazione. Francesco Giuseppe sarà sempre vestito da militare, per questo, per quanto riguarda la riproduzione dei ritratti, c'è anche questo passaggio significativo, e sarà diffuso in fotografia un po' in tutto il territorio dell'impero. E così mi pare anche significativo che i baffi a Francesco Giuseppe saranno un segno esterno, un tipo di addobbamento, insomma, che si diffonderà anche a Pioggia e che sarà, per così dire, adottato da strati sociologici di enorme rilevanza numerica. Mentre in precedenza il tipo di abbigliamento o il tipo anche di presentazione esterna dell'immagine del sovrano era un qualcosa di intoccabile, questi nuovi strati sociologici che si identificano nell'Ottocento con la corte ne assumono in un certo senso anche le apparenze esterne. E mi pare anche così interessante rilevare come in questo processo che si ha nell'Ottocento si abbia anche una sorta di annullamento della corte come luogo fisico. Vale a dire, per questi nuovi strati che si identificano ora col sovrano, è anche materialmente impossibile garantire una presenza, quindi un contatto immediato con la corte, qual era invece possibile all'aristocrazia settecentesca, che nella società di antico regime aveva il più grande dei privilegi, quello di disporre del tempo. Era il più grande valore in fondo del CR regime, chi non era costretto a lavorare e quindi poteva dedicarsi a elaborare anche stili di vita o comunque forme di introspezione estremamente accentuata e poteva poi esprimerle in senso collettivo in questa grande immagine della corte. In questo senso mi pare interessante verificare così sull'intero territorio imperiale, in un periodo in cui il trend nazionalistico si accentua in particolare, si cerca di creare una nazione dove prima esisteva soltanto un insieme di agglomerati regionali che non si possono neanche chiamare nazionali. Cerca di creare una nazione e la si crea in un certo senso anche da un punto di vista urbanistico, così si risolve il vecchio spazio delle feste di corte, e però contemporaneamente in tutto l'impero negli anni 70 si creano delle città a stampo, vale a dire sul modello di Vienna, che viene del tutto sventrata e ridistribuita dal punto di vista urbanistico, vengono abbattute le mura e viene quindi unificata la vecchia cittadella nobiliare che era interna alle mura con i quartieri invece proletari o piccolo borghesi che erano situati all'esterno. Viene creato il ring, un'arteria dove vengono costruiti ferrovie, banche, luoghi di commercio, luoghi di lavoro, quindi uno spazio per ceti produttivi che si distanziano in maniera assoluta dalla vecchia logica dell'antico regime, e su questo ring viene creato uno spazio nuovo di rappresentazione per il sovrano. Cioè, quello che era in fondo una volta il palazzo di corte, lo spazio della festa, in cui il sovrano si vedeva con i suoi uomini, che erano allora i nobili, viene creato a Vienna, in questa arteria, dove spessissimo gli imperatori dell'Ottocento e del Novecento si esibiranno in uscita pubblica, a carrozza scoperta, e talvolta, altro dato significativo, alla guida degli eserciti. Quindi è un'immagine anche che viene valorizzata. In un certo senso la cessazione del vecchio stato patrimoniale non porta a una cessazione della rappresentazione esterna, della rappresentazione funzionale dello status, che era stata classica dell'antico regime. La corte non muore, semplicemente cambia di funzione, Ma è significativo, e in questo senso mi ha interessato molto quello che ha detto il professor Beder in precedenza, il fatto che ci sia una linea di uscita ulteriore nell'Ottocento, nel Novecento e poi ancora fino ai giorni nostri, riguardante la teatralizzazione dell'insieme sociale e della vita pubblica. E così sull'esempio di Vienna, da Sarajevo a Cernovic, a Lemberg, a Graz, a Linz, in tutte le città dell'impero, viene creata una dislocazione urbanistica simile, che verrà sempre utilizzata dall'imperatore durante le sue visite alle varie città dell'impero come luogo di rappresentazione, come luogo di passaggio alla testa dell'esercito. Ecco, concludendo adesso rapidamente, queste sono state osservazioni sparse, la mia ricerca è stata per forza di cose estremamente limitata. Sarebbe stato per esempio interessante riuscire a verificare anche il cambiamento di queste immagini di corte, non soltanto nella storiografia o comunque nella cronaca diaria tedesca di questo periodo, ma anche nelle storiografie nazionalistiche, ungheresi per esempio, o ceche o croate. Qual è la nuova figura di cortigiano, la nuova figura di uomo dell'imperatore che attraverso questi cambiamenti cerca di produrre? È la figura in fondo del soldato-nazione, contrapposta a quella del vecchio, dell'antico, nobile regione. Mi spiego meglio. La forte tensione nazionalitaria di questi anni, che si concluderà poi con un grande successo, cioè con la dispersione centrifuga dell'impero e la creazione di parecchi stati nazionali nell'area centroeuropea, questa tensione nazionalitaria trova in un certo senso una nuova figura sociologica presso la quale si può appoggiare, vale a dire il soldato. E il mito asburgico, o comunque il mito monarchico, conosce nell'Ottocento, in tutta quest'area, una nuova rivalidazione, non più sulle antiche basi di identificazione con la nobiltà, ma sulla base di identificazione con forze sociali di tipo nuovo. Ed è un fenomeno, per esempio, e con questo chiudo, con un riferimento letterario, che a me pare estremamente evidente nell'opera di Joseph Roth, il quale dissemina di personaggi di questo genere tutti i suoi romanzi. E il mito monarchico esiste in tutti questi personaggi, insomma, o comunque in un'area sociologica ampia che Roth in qualche maniera rappresenta. Ecco, il problema è che è un mito monarchico di tipo nuovo che è nato, in fondo, da un cambiamento di qualità da parte della casa regnante come risposta alle tensioni indotte dalla rivoluzione francese da un lato, quindi riaggregamento sociologico ampio, e poi in particolare dalle guerre napoleoniche, vale a dire creazione di eserciti di massa, bisogno di dare a questa nuova figura del soldato massa una propria rappresentazione